La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Pronti come ogni sabato, il film, il cinema, tutto quello che c'è da vedere in sala, La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi. Siamo nel pieno del Ponte Pasquale, ponte, perché c'è anche il lunedì. Se poi ci sono anche dei buoni film, come questa settimana, vale proprio la pena andarci. Noi, come sempre, cercheremo di farvi da guide per la vostra passione cinematografica sul grande schermo e anche con qualcosina da vedere sul piccolo. Cominciamo subito col salutare al telefono Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi come sempre. Boris, ciao! Buon pomeriggio Franco, a te e a tutti gli ascoltatori. Buona Pasqua in anticipo, però insomma ci siamo, ormai siamo lì alle porte. Come passerai Pasquetta, andando al cinema? Beh, ovviamente, ecco, cerco sì. di recuperare tutto quello che non ho visto, cioè, poco però abbastanza, cioè niente praticamente. Senti, dicevo, una settimana nella quale ci sono buoni film, ci sono sicuramente ancora molti film, quindi come dire, approfittiamone, perché presto la gran calura, cioè, facciamo passare ancora aprile, poi ci sarà maggio con il Festival di Cannes, ma poi insomma, come dire, di solito si comincia un pochino a tirare le fila, però vorrei cominciare da un film molto sentito in un certo senso, perché il tema degli ultimi giorni di vita di Pierpaolo Pasolini è stato un tema trattato da molti film, ancora recentemente dal film di Abel Ferrara, precedentemente da Giordana. Insomma, come dire, Pasolini è talmente un totem della cultura italiana e la sua fine è talmente orrenda che spesso si è lavorato attorno a questo soggetto. Lo rifà anche David Grieco, e uno penserebbe, beh, magari c'è poco da dire di nuovo, e invece questa volta il taglio è veramente diverso. Pierpaolo? Un italiano su tre ha votato comunista il 15 giugno. Come si chiama questo film che sta a fare? Si chiama Salò. Sì. Ma com'è che vi interessa tanto sto ragazzo? Non capisco. Ho trovato il regista e muore papà attore. Facciamo parte di un pischello che ammazza un frocio. Pensa un po'. Mi stai dicendo che anche lui ti tradirà? Credo di sì. Allora non ti ama? Solo chi ti ama ti tradisce. Siamo nel 75, estate, Pasolini sta lavorando appunto a Salò, Le 120 giornate di Sodoma, sta anche terminando, lavorando alla stesura del romanzo Petrolio, e a un certo punto, diciamo così, gli arriva una sorta di trappola, probabilmente quella di un negativo del film rubato, con una sorta di riscatto che viene chiesto, un riscatto molto molto consistente. Questo è un po' l'ambiente, il milieu in cui si ambienta appunto il film di Grieco, Boris, però come dicevo un taglio un po' diverso, tant'è vero che Grieco, che ha intanto una caratteristica importante, perché lui è stato attore e assistente di Pasolini, amico di Pasolini, e poi non ha riconosciuto il taglio che aveva dato Abel Ferrara recentemente sul suo Pasolini, lì molto sul versante sessuale, qui invece molto quasi di inchiesta nella ricerca della verità. Sì, verissimo, è un film controverso nel senso migliore del termine, ma anche nel doverlo recensire, perché si sente enormemente la vicinanza del regista Pasolini, sia nella ricerca di un sentiero che fosse diverso, appunto, sia da quello meramente thriller, tra virgolette, di Marco Tullio Giordana, che aveva comunque fatto davvero un ottimo lavoro con il suo film, sia da quello sessual creativo di Ferrara, che aveva perso, se vogliamo, una grande occasione, perché aveva rinunciato sia a dire qualcosa di fondamentale o su Pasolini o almeno sulla sua morte, sia alla sua vena iconoclasta, che forse in un film su Pasolini poteva essere determinante. Invece sembra far paura Pierpaolo Pasolini persino ad Abel Ferrara, non fa paura David Grieco, che lo conosce bene e che sente anche in qualche modo di dover farsi carico di un'eredità che è soprattutto quella civile, e fa La macchinazione. La macchinazione è un film a suo modo sfortunato, perché ha avuto una gestazione molto lunga, perché poteva avere un budget decisamente migliore, perché non è stato fortunato in alcuni momenti della sua crescita. È un film interessante perché David Grieco, che già aveva fatto Evil Enco, che secondo me è un cult ed è decisamente sottovalutato, sa tenere in mano la materia del giallo che c'è sotto La morte di Pasolini in maniera molto brillante. Lo fa attraverso una storia semplice, ma con le sue complessità, lo fa raccontando in alcuni momenti quasi un heist movie. E questa è forse la parte migliore. La parte più fragile è quella in cui Grieco sente anche l'eredità artistica di Pasolini, che prova a tradurre le idee, il coraggio, il talento di Pasolini in scene cruciali, in scene particolarmente importanti, alcune visionarie come quella della gru, come quella dei cellulari, della folla, di una sorta di Pelizza da Volpedo con i cellulari o quasi bucoschiana, che non sono particolarmente riuscite, sono scene che non rendono benissimo l'idea, e in parte perché sente giustamente anche l'opera letteraria Petrolio come fondamentale nella morte di Pasolini. E il mostro Cefis, che viene evocato continuamente attraverso lo scritto di Pasolini, che era sostanzialmente l'erede di Mattei, no? Quello che Lyndon Johnson fu per John Fitzgerald Kennedy, a Leni Cefis fu per Mattei, quasi invade il film e non riesce forse a far crescere il personaggio di Pasolini, che rimane forse un po' troppo bidimensionale. Non aiuta, e questo sicuramente nelle versioni straniere migliorerà, non aiuta il fatto che Massimo Arenesi è bravissimo, ha una forza, una potenza fisica ed espressiva straordinaria, unita a una somiglianza che è davvero impressionante. Ranieri ha raccontato che quando si sono incontrati lui e Pasolini rimase quasi turbato da quella loro somiglianza, e che però non riesce insomma a togliersi quella napoletanità che in bocca a Pasolini non funziona tantissimo, che è anche il difetto che ha uno dei migliori attori che ci sono nel cast, Matteo Taranto, che però nel momento in cui tenta il romanesco più spinto sembra un po' il Celentano di Lucantino. Ecco, questo tipo di doppio versante del film rende il film in alcuni momenti molto riuscito e in altri, purtroppo la maggior parte, incompiuto. E l'impressione è che è davvero quasi impossibile fare un film su Pasolini, è davvero troppo per la nostra coscienza collettiva quel coraggio e anche l'incapacità della società, del mondo degli intellettuali e della politica e del potere di accettare, di accogliere Pasolini. È stato respinto fino alla fine, fino a morirne, e probabilmente quel racconto al cinema ancora non è maturo e quindi non ci riesce nemmeno David Grieco, però rimane un film molto interessante. Chissà se un giorno si riuscirà insomma a dire la parola giusta, non dico la parola fine, ma la parola giusta sulla filmografia su Pasolini. Però sicuramente un film da vedere, appunto la presenza di Massimo Ranieri è sicuramente una cosa che nobilita molto questo film, perché Massimo Ranieri, un uomo di spettacolo che io apprezzo tantissimo a tutto tondo, riesce anche al cinema a essere, e lo è stato anche quando era giovane, a essere molto, molto molto efficace. Sentiamo come vanno le cose sulle strade, Boris, adesso, e poi ci tuffiamo in climi ben più ridanciani con Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, seconda parte, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. Ricorderete, 13 anni fa il film che aprì questa mini saga, sono due film per il momento, chissà se finisce qui, fu un successo mondiale, la storia di questa famiglia greca nell'America contemporanea con tutti i pesi generazionali di una ragazza che si innamorava di un New Yankee, diciamo così, e che però doveva farlo accettare e farsi accettare per la sua grecitudine, potremmo dire. Ebbene, si ritorna su quei temi, si ritorna su quelle tracce, addirittura con tanto di epica nelle scene iniziali, con questa casa bianca e azzurra che molti di voi ricorderanno con i colori della Grecia, che viene inquadrata proprio come fosse un vero, e lo è, un vero personaggio di questo film. Allora, ascoltiamo la clip. Tanto tempo fa ho fatto un grosso grasso matrimonio greco. Questa famiglia si fa sempre gli affari miei. Il prete non ha mai firmato l'atto di matrimonio. Non siamo sposati! Sono una hippie! Ora la mia famiglia si è riunita. Chi ha detto che una donna deve sposarsi? Tu, da sempre. Il matrimonio si fa! Per un altro grosso, grasso matrimonio greco. Un altro grosso matrimonio greco, quale? Quello dei genitori della protagonista. Praticamente ricorderete il papà che curava tutto con il Vetrix, che dalle ferite a tutto quanto. Bene, scoprono di non essere sposati. In realtà il loro matrimonio non è mai stato registrato e quindi, alla tenera età di 70 anni circa, devono ritornare a convolare a giuste nozze. Ma gli occhi con i quali Nia Vardalos, che è la protagonista del film e anche l'autrice del soggetto, della sceneggiatura, vede e ci fa guardare questa storia, sono quelli di sua figlia, e quindi c'è una terza generazione che entra in campo, ancora più staccata se volete dalle tradizioni, ma ancora più bisognosa di radici, ed è questo il conflitto, tradizioni e radici che non sono la stessa cosa e che però sono la necessità che incombe in questo film. E allora Nia Vardalos, John Corbett sono come sempre i due protagonisti principali. Tra l'altro si sono, come dire, in questi 13 anni sono migliorati, anche sono tenuti molto bene, e sono messi di fronte a due frecce che vanno in due direzioni diverse, quella dei genitori e quella appunto dei figli. Non c'è il tentativo di fare qualcosa di più di una commedia che faccia ridere, non c'è però neanche il tentativo di pigiare a tavoletta su una comicità spiccia fatta di gag, ricorderete quella della cuffia con microfono del primo film che andava nei trailer eccetera. C'è un pochino più di così di amore verso quelle che sono appunto le storie e i personaggi che si raccontano, ma alla fine tutto funziona. Sai che entri a vedere un film dove l'obiettivo è farsi quattro risate, ti fai quattro risate, anche grazie ad alcuni personaggi come quello della zia, onnipresente e molto saggia, molto moderna, molto avanti, che rinverdiscono il film. So che Boris Sollazzo non è completamente del mio parere, spero però di avergli fatto cambiare parere almeno un pezzettino, Boris. No, ma un po' me l'hai fatto cambiare, un po' siamo più d'accordo di quello che pensavo, nel senso che io denuncio di un grosso matrimonio greco 2 solo un filo di mancanza di originalità, cioè si aveva la grande possibilità di fare un sequel a 13 anni di distanza, quindi per sostanzialmente almeno una barra due generazioni di differenza, quindi si poteva fare un film tra virgolette nuovo, si poteva fare un film anche per chi non avesse visto il primo, e forse in quel senso si è fallito, nel senso che devi conoscere bene l'universo greco-americano WASP a cui si fa riferimento, sì, nel caso della coppia Corbett Vardalos, per apprezzarlo fino in fondo. Detto questo, però, è un sequel più che dignitoso, perché non va ad aggrapparsi al primo come se fosse un'ancora, ma va ad aggrapparsi al primo come se fosse un nuovo porto da cui ripartire. Ha l'idea molto intelligente, pur nella mancanza di originalità, di trasformare in qualche modo quello che era semplicemente la ricerca di un'unione tra diverse tradizioni e la ricerca di un'unione tra una famiglia di immigrati di seconda generazione e una famiglia appunto puramente WASP, puramente americana, di trasformarla in una sorta di commedia generazionale in cui le radici sono ancora fondamentali, ma le vediamo proiettate su tre generazioni diverse, e di sicuro non tanto quella di Vardalos, Corbett e dei loro genitori che già conoscevamo, quanto quella dei figli, in cui c'è inevitabilmente quel distacco appunto generazionale, che non è solo legato alle radici, ma è legato anche all'incapacità dei genitori e dei nonni spesso di arrivare al cuore, al cervello dei giovani, e magari ci riesce appunto la solita vecchia zia o nonna a seconda del film. Lì c'è il salto in avanti del film. È bello vedere anche questo universo per i nostalgici di Un grosso grasso matrimonio greco, perché dicevi bene, Pardalos e Corbett si sono tenuti così bene che sembrano quasi meglio dell'originale, però è vero che sono anche invecchiati bene, cioè tu hai il senso del tempo che è passato su di loro, e questo rende la forza del primo capitolo, che era la normalità, il divertimento sulla normalità, il divertimento su un quotidiano che poteva esistere. Si raccontavano realtà credibili, perché insomma, per chi conosce un pochino la minoranza greca negli Stati Uniti, si sa che quelle case hanno quel tipo di imbianchini che decidono insomma di dipingere con i colori della bandiera greca le case. C'è una forte radice anche estetica per quanto riguarda la Grecia, e pur venendo da una cultura raffinatissima c'è anche quell'aspetto kitsch e pacchiano. Quindi diciamo che esteticamente si è più maturi, e in più c'è un altro piccolo surplus rispetto al passato, che è questa vena di malinconia, cioè non si abbandona, esattamente come dicevi tu, l'aspetto più ridanciano, più facile della gag fine a se stessa, che era che rappresentava un assist facile rispetto a quella differenza culturale, per inserire quell'elemento agrodolce che forse adesso ha ancora più senso, perché Un grosso grasso matrimonio greco faceva ridere perché sembrava lontano nel 2003. Nel 2016 i problemi di integrazione sono molto più forti, e può essere anche un problema con una Grecia che ha vissuto quello che ha vissuto avere questo tipo di distanza, soprattutto negli Stati Uniti percorsi dall'odio di questo momento. Quindi mi sarebbe piaciuto, visto il punto di partenza e visto che la squadra che ha vinto non era cambiata, che ci fosse un po' di coraggio in più. Detto questo, è un film che, come dici tu, mantiene esattamente quello che promette, e non è poco, ti fa ridere, e io lo consiglio soprattutto a chi non ha visto il primo, perché chi non ha visto il primo non farà il confronto e lo apprezzerà molto più di questo critico un po' troppo severo. E tra l'altro aggiungo, prima di cambiare argomento, Elena Campuris, che è la figlia nel film, è una ragazza classe 97, 18 anni, ne sentirete molto parlare, perché ha una espressività e uno sguardo che regge veramente durante tutto il film. Questo è Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. Adesso facciamoci invece il gioco 1, cioè giochiamo insieme per la prima volta con il nostro film misterioso. Oh cavolo, quello era il mio Dante preferito! Finirti per noi sarà un vero piacere! Il dente preferito, avete indovinato di che film si tratta? Come sempre il nostro gioco è molto semplice, diteci di che film si tratta, scrivete la vostra risposta alla Rosa Purpurea @radio24.it con il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Spazio a un altro film, a un'altra novità in sala, Land of Mine, ascoltiamo la clip. Dalla bandiera nera fino laggiù ci sono 45.000 mine. Voi le disinnescherete. Quando avrete finito potrete tornare a casa. Siete degli idioti! Solo un mucchio di stupidi tedeschi! Fermo! Sono dei ragazzini, Ebbe. Aiutatemi, per l'amor di Dio! Ripeti con me. È quasi finita. È quasi finita. Io tornerò a casa. Io tornerò a casa. Sì. È incredibile come la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista dell'Europa, eccetera, riescano ancora a dare scorci, dico inediti, almeno per noi qua in Italia, penso che sia così in gran parte dell'Europa, come questo, di questo Land of Mine, Sotto la sabbia, acclamato all'ultimo festival di Toronto, che racconta un frammento di storia veramente incredibile. Nei giorni subito dopo la resa della Germania nazista, nel maggio del 45, i soldati tedeschi, le situazioni si invertirono ovviamente, i soldati tedeschi in Danimarca furono deportati e messi a lavorare allo sminamento. Avevano lasciato 2 milioni di mine sulle spiagge della Danimarca, che non è esattamente un paese enorme, 2 milioni di mine, e furono squadre di giovani tedeschi, 18, 19 anni, 17 anni, messi lì sotto gli occhi aguzzini dei generali e degli ufficiali danesi a sminare a mano tutto quanto. E questa è la storia che viene raccontata in Land of Mine. È una storia che tra l'altro ha il pregio di essere raccontata con grande delicatezza, grande poeticità, e di raccontare come poi alla fine, come sempre, il rapporto umano sia quello che vince se si riesce a instaurare. Boris, è un film sorprendente questo Land of Mine. Clamoroso, perché ci ricorda una cosa, che la storia viene scritta dai vincitori e i vincitori dimenticano tante cose, ed è il motivo per cui secondo me la Seconda Guerra Mondiale continua ad essere un periodo fertilissimo per chi abbia voglia di fare cinema su quel periodo, andandosi a cercare storie diverse, appunto la storia degli sconfitti che vengono coperti di vergogna e che non hanno neanche la dignità delle ingiustizie subite, perché chi era a capo dei loro eserciti e delle loro nazioni si era macchiato di colpe infami. E questo è molto interessante. Ancora più interessante forse è proprio questo aspetto tellurico del raccontare la follia della guerra attraverso la sua arma più terribile, più atroce, più ingiusta e più casuale, che sono appunto le mine. A Torino, nel Torino Film Festival, forse il film più bello era in After Hours, si chiamava Chi lo più bravo, e raccontava appunto di come un plotone di americani in Afghanistan combatteva la sua guerra contro un terreno brullo che era stato minato dai russi nell'invasione dell'Afghanistan. Quindi una follia, cioè si combatteva una guerra già finita in quel momento e che faceva però ancora vittime. E qui succede più o meno lo stesso, perché i tedeschi, giovanissimi tedeschi, vengono deportati in Danimarca, quindi subiscono quello che la Germania aveva fatto subire a diverse etnie e nazionalità, e arrivano loro giovanissimi a dover appunto sminare i terreni danesi. Ci sono ben 2 milioni di mine, vengono sommariamente addestrati e 14 di loro cominciano a fare questo lavoro infame. Ovviamente potete immaginare che cosa può succedere, ma la cosa più interessante è sostanzialmente il full metal jacket che si crea tra vittime e carnefici, cioè quelle che fino a poco tempo prima erano vittime diventano carnefici, e quelli che prima erano carnefici o sarebbero diventati carnefici, perché in alcuni casi non hanno neanche fatto in tempo ad essere carnefici, diventano vittime. Zindelweit, spero che si dica così, che è il regista, riesce a raccontarlo con una regia allo stesso tempo asciutta ma molto molto espressiva, riesce a costruire un cast di volti non particolarmente noti ma straordinariamente potenti nel raccontare questo rapporto che si fa sempre più ambiguo, fino ad arrivare a chi è a capo, al danese che è a capo di questa squadra, che è questo Rasmussen, che ha un modo molto danese di essere feroce, ha un modo molto freddo e allo stesso tempo però estremo di portare avanti il suo ruolo di carnefice, esattamente militare, e la forza di Land of Mine è dirci che la guerra, da qualsiasi lato si guardi, è qualcosa di folle. Spesso si è detto che alcune guerre erano più sporche di altre. Land of Mine forse ci dice che la guerra è sempre sporca e puoi accorgertene semplicemente quando il tuo nemico non c'è, oppure quando il tuo amico diventa nemico, quando la vittima diventa carnefice e quando tu devi combattere con qualcosa che non vedi, con qualcosa che sta sottoterra, che probabilmente rappresenta l'inconscio di quella guerra e che però riesce a fare vittime ancora a guerra finita. In questo si sposa benissimo con Chi lo più bravo, ed è molto interessante che adesso i film di guerra non hanno più bisogno di scene di guerra ma hanno bisogno solo di morti, e questo fa un po' paura. E questo fa davvero un po' paura. Land of Mine, adesso lì nella regia, fra poco ci aspettano due supereroi, Batman e Superman, uno contro l'altro. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La rosa purpurea. Quel Bat vigilante è un regno del terrore in mano a un uomo solo. Non sei tu a decidere qual è la cosa giusta. A nessuno importa di Clark Kent che affronta Batman. La gente odia quello che non capisce. Sì, il loro eroe, Clark. 20 anni a Gotham. Quante brave persone sono rimaste. Lui ha il potere di cancellare l'intera razza umana. Dobbiamo distruggerlo. Vuoi andare in guerra? Giorno contro notte. Arrivano i mantelli rossi. Eccoci, arrivano i mantelli rossi, ma arrivano soprattutto due supereroi da superclassico: Batman vs. Superman. Dawn of Justice è il film della settimana, sicuramente uno dei più attesi della stagione a livello di botteghino. È arrivato nelle sale cinematografiche italiane già il 23 marzo, ha cominciato subito a far bene in termini di incassi. Ora noi ne parliamo però per capire cosa ci sia di buono, quanto, dove, e lo facciamo con Boris. Boris, sei pronto a sfidare i due supereroi? Ma guarda, se li dovessi sfidare realmente probabilmente ne uscirei perdente, anche se non sono sicuro, visto quanto sono poco intelligenti, diciamo, in questo film. Però devo dire che è un vero super disastro sotto tutti gli aspetti. Su 2 ore e mezza di film io sono riuscito a trovare 2 scene di pochi secondi che meritavano. Una ve la dirò perché è una battuta molto divertente, perché non faccio spoiler. Si incontrano Bruce Wayne e Clark Kent, non sanno forse di essere Superman e Batman l'uno dell'altro, e a un certo punto il buon Clark Kent dice, parla male di Batman a Bruce Wayne, e Bruce Wayne, rispondendogli su Superman, gli dice: sai, noi a Gotham City abbiamo già avuto problemi con degli psicopatici vestiti da clown. E questa, devo dire, è la parte migliore del film. È una battuta straordinaria, però non regge 2 ore e mezza. No, ecco, no, infatti, secondo me uno dei problemi veri del film è proprio quello della lunghezza. C'è 151 minuti. Io l'ho visto di sera tardi, non mi vergogno a dire che un paio di volte nella prima parte mi sono addormentato, perché è tirata veramente per i capelli e ben oltre. Mentre ho trovato molto efficace, saranno stati i popcorn che ho mangiato all'intervallo, ho trovato molto più efficace la seconda parte, dove succedono le cose, per intenderci. Però questo dell'equilibrio, insomma, quando fai un film di 2 ore e mezzo devi avere una motivazione, perché altrimenti il film non sta ovviamente in piedi. Ma io, in tutta onestà, devo dire che la cosa migliore del film è stato il messaggio all'inizio di Zack Snyder, e ho capito per quale motivo le major sono così preoccupate degli spoiler. Non perché temono che gli spettatori possano sapere qual è la fine del film, ma perché quando hanno svolte di sceneggiatura scarse, come quella su cui si fonda Guerre Stellari 7, o come quella su cui si fonda Batman contro Superman, perché io vi sfido ad andare a proporre a un produttore italiano la svolta di sceneggiatura che risolve la rivalità tra Batman e Superman, e lui vi prenderebbe a calci. Ho capito che le major lo fanno proprio perché se noi rivelassimo qual è la svolta di sceneggiatura, nessuno si sognerebbe di andarla a vedere. Potremmo sempre dire che è un film che non ha un finale. Cioè, tu hai detto: non vogliamo spoilerare, non spoileremo niente, tanto non c'è niente da spoilerare. È chiaro che il presupposto da cui si parte in un film così è vendere dei prodotti, è vendere un brand. Ci sono anzi 2 brand qui, quello di Batman e quello di Superman. Ci sono anche, a mio modo di vedere, degli errori di cast, perché Ben Affleck nei panni di Batman io lo vedo veramente poco credibile, troppo figo, poco maledetto, poco sporco, per intenderci, mentre Henry Cavill in quelli di Superman è perfetto, perché è l'angioletto, come dire, fisicato che tutti ci aspettiamo. Trovo che il film però, Boris, abbia anche qualcosa di positivo nella parte produttiva. Beh, dice, ci mancherebbe altro, certo, con tutti i miliardi che ci hanno speso, però ha un'estetica, ha una fotografia coerente, ha un senso immanente, pressante di apocalisse che lo segue dall'inizio alla fine, forse anche troppo, ripeto, quando dilati così tanto i tempi, perché poi qualcosa deve succedere. Non male i costumi dei due supereroi rinnovati, rivisitati, ripescati. Certo, forse non basterà in termini critici a salvare il film, però tutto sommato quello che si poteva mettere, cioè i soldi si vedono, ecco, anche l'utilizzo tecnico a livello audio del nuovo Dolby Atmos, no? che questo nuovo sistema audio impressionante, ecco, forse usato troppo, perché per 2 ore e mezzo è usato veramente tanto, però, come dire, è un film che esteticamente e in termini produttivi porta a casa la pagnotta. Certo che, come dici tu, manca un po' il perché e il per come. Sono due personaggi questi che abbiamo sempre vissuto come risolutori a modo loro, uno è la luce, uno è cristologico Superman, l'altro è il buio, è il pipistrello Batman, ma sono due che abbiamo sempre visto risolvere i problemi del mondo, non crearne. Sì, sono due a loro modo non risolti. Il problema, secondo me, serio del film è che, come dici tu, sembra un ottimo lavoro preparatorio a un film su Batman e Superman, ma quel senso immanente di apocalisse, che devo dire però si perde lungo tutto il film, poi non viene risolto da una sceneggiatura che, nonostante metta insieme da una parte Terrio portato da Ben Affleck e da Argo e dall'altro Goyer, che insomma è pur sempre l'adattatore per il cinema di Blade e faceva parte della squadra del Batman di Nolan, quindi si sperava potessero raccontare una storia più forte, noi ci ritroviamo di fronte a una scrittura cinematografica in alcuni momenti elementare, in altri involontariamente umoristica e spesso non adatta alla grandezza dei due personaggi, che comunque avevano bisogno dello Zack Snyder migliore, cioè quello di Watchmen, per uscire dal loro anacronismo, perché Batman e Superman sono due supereroi DC Comics che partono da presupposti troppo antichi per realizzarsi all'interno di un impianto supereroistico che va veramente dagli X-Men fino a, lo chiamavano G-Robot di Gabriele Mainetti, ecco. Il consiglio che vi do è andare a vedere Lo chiamavano G-Robot ancora e non Batman contro Superman. Però il problema di tutto questo è proprio l'impianto produttivo, che poi non mantiene nulla di quello di ciò di cui promette, e che ha degli errori di casting straordinari, perché Jesse Eisenberg e Amy Adams ti fanno venire i capelli bianchi, perché credo sia la prima volta che li vediamo recitare male, e il motivo sono dei personaggi davvero unidimensionali, dei personaggi che non di rado raggiungono un livello di ridicolo. Ci sono delle entrate in scena come quella di Wonder Woman abbastanza incomprensibili da qualsiasi parte li si voglia vedere. Non trovi né il Superman cristologico veramente, né il Batman cupo di Miller, e hai ragione tu, Affleck è un problema drammatico nel film. Io trovo che anche Cavill abbia qualche problema, nel senso che sono d'accordo che fisicamente ed esteticamente è il Batman perfetto, ma la scarsissima espressività, non che Reeves, il compianto Reeves ne avesse chissà quanta, non lo aiuta. Fa impressione che l'uomo che con Watchmen, ma anche con 300 e persino con Cyber Punch, aveva fatto dell'estetica eccessiva e dei caratteri e delle caratterizzazioni eccessive la sua forza, qui invece si perda completamente. Si era già capito con Man of Steel che Superman non faceva per lui, adesso sappiamo che Batman non faceva per lui, ecco. Diciamo che la buona notizia è però una: Lo chiamavano G-Robot ci ha detto che anche noi italiani possiamo fare film di supereroi. Zack Snyder e Batman vs Superman ci dicono che li facciamo anche meglio. Questa è una visione, devo dire, ottimistica. No, sono d'accordo su G-Robot, tra l'altro, certo, è sempre un supereroe intimista, quello dell'approccio nostro, però effettivamente ci dice che forse questo è un filone, che un filino, scusate il gioco di parole, si sta esaurendo, cioè non è che possiamo andare avanti a farli tutti fino al 2040, perché forse anche sì, però non sono sicuro che venga sempre bene. Fammi salvare due cose del film: Jeremy Irons, che è sempre di gran classe, devo dire, e non so tu, ma a me Gal Gadot, che è la signorina che fa Wonder Woman, insomma, mi sembra promossa, cosa dici? Sono d'accordissimo, Jeremy Irons crea un problema secondo me, è talmente più bravo da sottolineare le mancanze di Affleck, cioè metterglielo accanto è stata una cosa straordinaria. Un disastro, certo. E lui è un Alfred forse un po' più gigione di quello che uno si aspetterebbe da Alfred, ma in bocca due o tre battute che valgono il prezzo del biglietto, e Gal Gadot sicuramente sarà una splendida Wonder Woman in un altro film, perché in questo c'entrava pochissimo. Ci entra proprio un po' di straforo a un certo punto. Beh, Boris, allora facciamo così, tanto Batman vs Superman lo vanno a vedere lo stesso, quindi tutto sommato, questo è uno classico caso di film sul quale il parere dei critici non conta niente, però noi lo diciamo lo stesso un pochino come è andata. Boris, a questo punto io ti saluto, ci sentiamo la prossima settimana, perché ci saranno un'altra quindicina di film in uscita e noi saremo qui come sempre a raccontarli. Alla prossima settimana e buon cinema. Allora, ci resta il tempo per giocare insieme, per giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Quella creatura ti ha protetto. Perché? Non lo so. Torno a casa. È lontano il Monte Zanna di Lupo. Avete già indovinato, avete capito di che film si tratta, avete sentito prima Denti, adesso Monte Zanna di Lupo, insomma di che film stiamo parlando. La Rosa Purpurea, @radio24.it per dirci il titolo del film e il vostro indirizzo e provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. Adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme con un'anticipazione importante di un film di cui parleremo la settimana prossima e poi come sempre per tutto il cinema che c'è sul piccolo schermo. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, noi tra un po' vi diciamo tutto quello che c'è da vedere in TV, con un video o con i programmi del digitale terrestre, però prima voglio gettare un ponte sulla prossima puntata. La prossima puntata, settimana prossima, uscirà il film di Renzo Martinelli su Ustica. Ancora una volta abbiamo parlato questa settimana di Pasolini, il cinema italiano si interroga e racconta i fatti, insomma i grandi fatti, i drammatici fatti che hanno segnato la nostra storia. Ora, la cosa interessante che Radio 24 ha sposato in pieno è quella di raccontare il film, e lo faremo la prossima settimana quando il film sarà nelle sale e voi potrete andarlo a vedere, ma anche di raccontarlo con un radiodramma, perché è davvero una chicca quella che vi stiamo presentando. Il film sarà al cinema appunto dal 31 marzo, ma lunedì 28 marzo Radio 24 presenta il radiodramma Ustica, una verità inconfessabile, sceneggiato e diretto dallo stesso Renzo Martinelli, una sorta di spin-off del film fatto apposta per la radio e che ascolterete qui su Radio 24. Come nel film, il regista ripercorre con la voce della protagonista, una giornalista che ha perso la figlia nella caduta dell'aereo Itavia del venerdì 27 giugno 80 nel tratto di mare vicino all'isola di Ustica, appunto, i depistaggi, le verità sulla tragedia che ha provocato 81 morti, radiodramma che è anche un'indagine basata sulle carte, sui documenti processuali, alla ricerca della verità, anche a cercare di smascherare i silenzi, le mistificazioni, le tante controinformazioni che dall'80 a oggi non hanno di fatto permesso di raggiungere una verità definitiva e riconosciuta. E allora ascoltiamo questo breve estratto dal radiodramma Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 19, 81 vittime. Un aereo civile che precipita in mezzo al mare e nello stesso giorno un caccia libico viene abbattuto sui Monti della Sira. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Se ne deve andare, ha capito o no? Okay. Rischiamo di farci tutti molto male. Sai bene che la storia di questo paese è segnata dalle stragi. Non si fermeranno mai, non possono. Elementi di una storia che ritroverete nel film, ovviamente, di cui parleremo, lo ripeto, la prossima settimana, ma anche nel radiodramma in onda su Radio 24 lunedì 28 marzo. Davvero non perdetelo. Allora, andiamo avanti con la soluzione del gioco della scorsa settimana. Ecco fatto. Bene, ora prova tu. Soffia. Dai, un bel respiro. Benissimo. E allora, era un game evidentemente lontano nel tempo di un film che però è rimasto molto molto impresso a una generazione, evidentemente non a quelle dopo, visto che a indovinare è stato solo un nostro ascoltatore, e gli diciamo bravo, Cesare Viganò di Seriate, provincia di Bergamo, che si porta a casa la nuova edizione on video del Mio Piede Sinistro, della quale ci facciamo raccontare tutto da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo del DVD, del Blu-ray di Mio piede sinistro, storia di Christy Brown che è colpito da una paralisi che gli preclude i movimenti e la parola. Malgrado questa menomazione, la sua famiglia, numerosa e in modeste condizioni economiche, lo cura con grande amore. E Christy riesce a comunicare mediante i movimenti appunto del proprio piede sinistro. E l'opera prima e la più importante, insieme a Nel nome del padre, del regista irlandese Jim Sheridan. Ed è veramente grande la serietà con cui la storia viene affrontata, ma senza concedersi mai a dei sentimentalismi. Il livello qualitativo della recitazione era talmente alto che fece portare a casa due premi Oscar a Daniel Day-Lewis e Brenda Fricker. Devo dire che DVD e Blu-ray sono veramente d'ordinanza, sono buoni soprattutto per colmare un piccolo buco nella propria videoteca. E allora questo era il nostro game della scorsa settimana, andiamo a vedere le segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima invece settimana, cominciando con un film bellissimo, veramente molto rigoroso di qualche stagione fa, che si intitola Uomini di Dio. Sì, lunedì 28 marzo su Rai 3 alle 23:20, Uomini di Dio, siamo in Algeria negli anni 90 e la pacifica convivenza tra 8 monaci trappisti francesi e la popolazione locale è compromessa dall'inasprimento del conflitto tra il governo e gli islamisti radicali. Xavier Beauvoir, attore francese ma anche autore, discontinuo e quasi sempre politico, gira nel 2010 un film capace di delineare le figure di questi uomini di fede, di comprenderne la scommessa pascaliana, e analizza le dinamiche comunitarie e poi anche i tentennamenti profondamente umani di questi 8 fratelli trappisti e del loro rapporto con Islam e Algeria. È un film questo che sa veramente distinguere, ad esempio, l'islamismo e il terrorismo, ed è pieno di presagi della situazione attuale. E allora Uomini di Dio è da vedere il 28 marzo alle 23:20 su Rai 3. Cambiamo decisamente genere, ma ci piace fare così, quella rosa purpurea, The Hunted, la preta di William Friedkin, che invece arriva il 30 marzo. Mercoledì 30 su Rai Movie alle 12:10, The Hunted, la preda. Un uomo già appartenuto alle forze speciali è precipitato in un'ossessione omicida. Si rifugia nella foresta, sceglie come vittime soprattutto cacciatori e li assassina con armi bianche. Il suo ex addestratore e maestro si mette sulle sue tracce. C'è Tommy Lee Jones contro Benicio del Toro, una caccia all'uomo che è veramente l'ABC del cinema di William Friedkin, che tra l'altro sarà tra poco omaggiato dal Lucca Film Festival, ed è un film veramente al grado zero, pura fisicità e tensione e nessuno scavo psicologico. Un film sulla paura, sull'America che si barica in casa, per quel che mi riguarda un grande film americano. Un grande film americano da rivedere quindi il 30 marzo su Rai Movie alle 12:10. E allora grazie Giulio San Giorgio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. Ed ecco, siamo arrivati così alla fine della puntata della Rosa Purpurea, non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e darvi appuntamento a sabato prossimo con tutto il cinema che c'è qui su Radio 24 alle 18 come sempre, ma tutta la settimana invece attraverso la nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24 per scambiare opinioni su tutto il cinema che arriva invece durante i giorni feriali. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.